Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla settima puntata dedicata alla lettura del romanzo Extenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'evoluzione della storia narrata, passando da un romanzo con tema soprannaturale a un fantasy, inizialmente durato in un solo libro, poi allungatosi ad una trilogia e infine addirittura un'esalogia, più uno spin-off. Oggi mi piacerebbe parlarvi del mondo di Nocturnia, come è nato e come si è evoluto nella mia testa. L'ispirazione per Nocturnia credo di averla avuta la prima volta che ho visto la copertina del disco The Number of the Beast degli Iron Maiden. Per chi non la conoscesse, c'è un gigantesco diavolo con tanto di forcone che muove con dei fili una moltitudine di minuscoli dannati che si dibattono tra le fiamme. Si trattava degli anni Ottanta e ovviamente non avevo la più pallida idea che l'immagine mi avrebbe ispirato a scrivere addirittura una serie di romanzi. In seguito rimasi molto colpito dai quadri di Hieronymus Bosch, in particolare dal trittico del giardino delle delizie, dove l'artista dipingeva scene grottesche di sofferenza dei dannati. Insomma, qualcosa nel mio subconscio era attratto da un mondo diverso dal nostro, dove il male, con la M maiuscola, dominava incontrastato. All'inizio, quando affrontai la scrittura di Extenebris, ne avevo un'idea molto nebulosa, in pratica solo che il sole era scomparso, da qui il nome Nocturnia, e che non esisteva la classica distinzione tra magia bianca e nera, ma l'unico potere soprannaturale ancora esistente era quello oscuro. Ma man mano che nella mia mente si dettagliava la storia, in parallelo andava definendosi anche il mondo che la doveva contenere. Quando immaginai la Rocca delle Tenebre, il bando che le confraterne avevano ricevuto dopo essere stata sconfitta dagli eserciti della Piva Nera, pensai a una porzione di mondo centrata sulla selva Atra, con a tre delle quattro estremità i luoghi dove erano stati banditi i membri delle confraternite. Una volta definita la posizione reciproca delle forze in campo, iniziai a immaginare quale tipo di territorio fosse più congeniale a ogni singola confraternita, decidendo che per gli evocatori era adatto un terreno vulcanico, per i negromanti un territorio carsico dove scavare un ampio sistema di catacombe, e infine che i maghini si sarebbero trovati a loro agio in un terreno paludoso e malsano. Insomma, la geografia di Notturnia della prima trilogia ha seguito le esigenze della narrazione. Nella seconda, in realtà, quando ho deciso che avrei esplorato cosa si trovava oltre gli angusti confini della mappa allegata ai primi tre libri, è venuto un po' al contrario. Mi stuzzicava l'idea di scrivere un territorio desertico, un po' alla Dune, e forse soprattutto volevo assolutamente ambientare una parte sostanziosa della storia in un oceano popolato di mostri e attraversato da navi pilotate da rudi appartenenti a un popolo di mare. Dunque mi sono lanciato nel disegno di una mappa molto più grande, con luoghi molto diversi tra loro, lasciando che la mia fantasia si sbizzarrisse senza vincoli di trama. Quando ho avuto l'intera Nocturnia di fronte, e solo in quel momento, ho cominciato a ragionare su che popoli potevano abitarla e come si poteva dipanare la trama in modo che li coinvolgesse in maniera convincente e senza contraddizioni con quanto avevo scritto in precedenza. Ok, ora già abbiamo chiacchierato abbastanza, possiamo passare alla lettura del settimo capitolo del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 7. Diana era scivolata in un sonno leggero e agitato. La guardava Tom e intanto cercava di imporsi una calma che non sentiva neppure vicina. Se ne rendeva pienamente conto solo ora. Il suo mondo era svanito, inghiottito dalle tenebre che avvolgevano Nocturnia come un manto. Infilò la mano in tasca. Il libro era lì. Occorreva fare il punto della situazione. Le prime cose di cui avevano disperato bisogno erano acqua e cibo. Quel mondo era strano. Sembravano vigervi alcune leggi soprannaturali, ma per tutto il resto pareva assolutamente simile alla Terra. La forza di gravità, i materiali, il fuoco, anche la vita non sembrava essere molto differente. Gli alberi, per quanto stentati, crescevano. E d'altra parte Diana stessa, la cui stirpe aveva origine su Nocturnia, era umana nel senso più pieno del termine. Prese la torcia e cominciò una nuova esplorazione del sepolcro di Grenin. All'epoca in cui vi era stato chiuso dentro il re, la piccola cavità era stata bloccata da un cumulo di pietre. Ancora si riuscivano a scorgere i graffi che le sue unghie gli avevano lasciato sopra nel tentativo disperato di spostarle per uscire. La posizione composta che aveva assunto la mummia doveva essere stato un ultimo sussulto di dignitosa regalità all'approssimarsi della morte. La furia alla quale Gremio ne aveva accennato doveva essere invece sorta in quei lunghi momenti di orrore e disperazione. una macabra ironia, aveva voluto che, con il passare dei secoli, qualche movimento naturale del sottosuolo avesse fatto rotolare via alcuni dei massi. Ora c'era un passaggio sufficiente perché un uomo riuscisse a sgattaiolare tra una pietra e l'altra e passare oltre. In quella direzione erano riposte le loro uniche speranze di salvezza. Si infilò a fatica tra le rocce e scoprì che dietro di esse c'era uno stretto corridoio che conduceva verso le viscere della Rocca delle Tenebre. Lanciò un ultimo sguardo preoccupato verso Diana, sperando che non si svegliasse in sua assenza. Visto che aveva una sola torcia, la ragazza si sarebbe trovata nel buio più completo. Poi si incamminò. Il corridoio era angusto e umido e, nonostante fosse stato senza dubbio scavato dall'uomo, il lavoro non sembrava un granché raffinato. Con ogni probabilità si trattava di cantine o di segrete. A suffragare la sua ipotesi trovava di tanto in tanto gli stretti passaggi delle porte di velta, che si aprivano su ambienti angusti e spogli. Al termine del corridoio, una scala di roccia parzialmente crollata si avvolgeva su se stessa nell'oscurità. Si fece coraggio e cominciò a salire. Al termine della scala, una porta di legno molto pesante, ormai divorata dai tarli, giaceva a terra scardinata. Un nuovo corridoio si apriva davanti a lui, questa volta scavato con molto più cura. Due stanze con le porte di velte si scrutavano l'una di fronte all'altra nelle ombre che la torcia faticava a dissipare. Un altro crollo bloccava il corridoio una dozzina di metri più in là. Oltreva solo l'entrata delle stanze per osservare il cumulo di pietre, ma non poteva far altro che rilevare che qui non c'erano passaggi. Stava per tornare verso le due stanze, quando notò un mucchio di cenere e carta bruciacchiata in corrispondenza di una grande macchia scura sulla parete, probabilmente causata dal fumo dell'antico falò. Un pezzo di pergamena che ne spuntava appena attrasse la sua attenzione, perché pareva che ci fosse disegnato sopra qualcosa. Si chinò e, incastrata la torcia tra le pietre in modo che rimanesse verticale, cominciò a sfilarlo con delicatezza, scrollandogli la cenere. Finita l'operazione, si trovò tra le mani un pezzo di carta antica e sbiadita, mangiata dal fuoco e dal tempo su tre lati. Avvicinò la luce della torcia e intravide un disegno quasi cancellato accanto alla scritta. Paludi dei maghi neri. Aguzzò la vista e di fronte ai suoi occhi apparvero simboli e nomi in una ragnatela di disegni sottili. Era una mappa. Scorse la mano sulla pergamena e individuò una serie di indicazioni che potevano rivelarsi preziose, se mai fossero riusciti a uscire da lì. Lesse: Catacombe dei Negromanti e Cittadella degli Evocatori. Si dilungò qualche minuto a leggere con attenzione le scritte semicancellate, poi si scosse. Avrebbe potuto dedicare uno studio accurato alla mappa quando fosse tornato da Diana. La priorità adesso ce l'aveva la ricerca di acqua e cibo. Se la infilò in tasca. Tornò indietro ed entrò nella stanza alla sua destra. Un letto rovesciato campeggiava al centro dell'ambiente privo di finestre. I resti di una cassapanca distrutta con frutta furia erano sparsi qua e là, assieme a qualche oggetto che con tutta evidenza non interessava a chi aveva compiuto quello scempio. Tom raccolse un piccolo otere seminascosto nell'angolo. Se avesse trovato acqua, gli sarebbe stato utile per portarla a Diana. In una nicchia del muro c'era qualche capo di vestiario, prese anche quelli. La ragazza era ancora in camicia da notte e se mai fossero riusciti a uscire dalla rocca avrebbe avuto bisogno di coprirsi. Si diresse verso la stanza di fronte e vi trovò una devastazione anche maggiore. Tutti i mobili e i suppellettili erano stati distrutti con furia e non rimaneva nulla di utilizzabile. Stava per uscire quando sentì un gocciolio provenire dalla parete più lontana. Alzò la torcia e intravide una tubatura rotta a mezza altezza sul muro. Dal foro fuoriusciva un piccolo rivolo. La si tirò all'improvvisa quando si rese conto che erano ore che non beveva. Allungò le braccia e mise le mani a coppa finché non furono colme. Assaggiò il liquido con sospetto, ma quando sentì che era acqua fresca, ne bevve fino a sazietà, ripetendo il gesto molte volte. Quindi alzò l'otre e attese con pazienza che il rivo lo riempisse. Si guardò attorno. Non c'era altro che potesse tornargli utile, ma soprattutto da quella parte non c'era alcuna via d'uscita. I massi che bloccavano il corridoio erano troppo pesanti per sollevare, anche per un uomo ben più forte di lui. Si diresse di nuovo verso la scala a chiocciola. Quando era a metà della discesa, avvertì un leggero tremore dei gradini di pietra. Si fermò un istante per riprendere l'equilibrio. Era la scala a vacillare o... Una scossa molto più forte lo fece quasi precipitare giù. Non era la scala, ma l'intera rocca a tremare dalle fondamenta. Terrorizzato cercò di riprendere l'equilibrio e scese di corsa agli ultimi scalini. Cominciò a correre lungo il corridoio in direzione del sepolcro. Le scosse sembravano aumentare di intensità e duravano ogni volta qualche istante di più. Venne colpito alla testa da un sasso che si era staccato dal soffitto del cunicolo e questo lo indusse a correre ancora più veloce, se mai possibile. Un'ultima svolta e si trovò di fronte al cumulo di pietre crollate. Una scossa fortissima spostò dalla sua sede una roccia enorme, rendendo più stretto il passaggio. Tom si rendeva conto che la prossima lo avrebbe completamente sigillato. Dovette fare forza sulle sue gambe per obbligarle a muoversi. Sapeva che oltrepassando l'angusto pertugio si sarebbe chiuso per sempre nella tomba di Grenian e che avrebbe fatto con ogni probabilità la sua stessa fine. Ma non poteva abbandonare Diana. Si infilò tra due blocchi di pietra, sperando di avere il tempo di passare e di non essere schiacciato dalla scossa successiva, che sentiva risalire dalle viscere della rocca. Fece appena in tempo a scivolare fuori dalle rocce, quando la scossa arrivò e fece tremare il pavimento con violenza inaudita. Tom venne gettato a terra e le pietre che erano in cima al cumulo rotolarono verso il basso, andando a serrare definitivamente lo stretto passaggio. Erano in trappola. Shaltul fissava l'oscurità di fronte a sé con il suo unico occhio. Era immobile, con i suoi sensi estesi oltre il suo corpo. I suoi poteri gli permettevano di mettersi in comunicazione con tutti gli esseri che aveva strappato dalla loro dimensione e aggiogato al suo volere, il suo esercito. Percepì il desiderio di parlare con lui da parte di un mastino degli abissi, uno dei demoni minori che pertugliavano i confini del suo regno. «Signore», la voce acuta e sgraziata del demone gli esplose in testa. «Parla!» «L'odore era forte, signore», sibilò il mastino. «Una giovane donna con un enorme potere oscuro era la rocca di Grenian». «La nera?» chiese brusco Shaltul. Allora la sua intuizione, o meglio il suo timore, era giusto. La rete della linea di sangue era riuscita a oltrepassare il varco. «Ne sei sicuro?» «Il potere oscuro che emana ha un odore inconfondibile. Può far male». «Come puoi essere sicuro se è proprio la nera?» insistette. «Non hai il marchio del patto, signore. E solo la nera ha il potere senza il marchio». «Dov'è adesso la ragazza?» chiese Shaltul. E per un attimo temette la furia selvaggia del demone. Poteva averla sbranata per il solo piacere di farlo, e lei non aveva ancora il controllo dei suoi poteri per difendersi. Dentro il sepolcro di Grenian, un ringhio di frustrazione seguì queste parole. «Non ha scampo, nessun umano può uscire vivo». L'evocatore ascoltò solo a pensiero. Se era riuscita a entrare nel sepolcro, voleva dire che i suoi poteri cominciavano a svilupparsi. «Puoi andare, mi hai servito bene», disse, facendo un rapido gesto di congedo. «Al tuo servizio, padrone». Il tono servile del demone era falso come una moneta di stagno. Se ne avesse avuto l'occasione, avrebbe banchettato con il suo cadavere e brindato con il suo sangue. Solo il patto lo costringeva alla fedeltà. I vincoli che legavano i demoni all'evocatore erano indissolubili, pena la perdita della possibilità di tornare nell'abisso. Dov'era Enroth? Aveva bisogno del suo consiglio per sviluppare una strategia. Quando la nube di polvere si posò, Tom ne emerse pallido come una maschera funebre. Diana sussultò. I suoi occhi accecati dalla luce improvvisa dopo il buio nel quale era stata immersa fino a quel momento. Impiegò qualche istante prima di riconoscerlo, poi si accasciò di nuovo su se stessa, priva di forza. Tom si accostò a lei e le versò con delicatezza un po' di acqua nella bocca socchiusa. Qualche goccia scivolò tra le sue labbra riarse, giù sul mento, ma la ragazza beve avidamente il resto. Lui ripeté il gesto varie volte perché la sua sete sembrava inesauribile. Quando lei alzò la mano, capì che non ne voleva più. Diana richiuse di nuovo gli occhi, come se lo sforzo di bere avesse esaurito le sue energie. Tom l'appoggiò delicatamente alla parete e si guardò attorno. La situazione, nel momento in cui sembrava migliorare un po', era peggiorata all'improvviso. L'acqua con la quale aveva riempito il piccolo otre era già finita per metà, e la mappa in quel momento era la cosa più inutile in suo possesso. Le pareti di roccia sembravano incombere loro addosso, quasi stringersi con il passare del tempo. La torcia era quasi completamente consumata, tra non molto sarebbero rimasti anche al buio completo. Cercò di non farsi prendere dal panico. Un gemito di Diana attrasse la sua attenzione. La ragazza sembrava aver ripreso riconoscenza. «Ti senti meglio?» chiese precipitandosi accanto a lei. «Un po'», mentì Diana, tirandosi leggermente su e guardandolo speranzosa. I segni scuri che le cerchiavano gli occhi dicevano il contrario. A Tom si strinse il cuore, come se fosse serrato da una morsa. Come faceva a dirle che erano sigillati nella tomba del suo avo? «Hai ancora sete?» tergiversò prendendo tempo. «Siamo prigionieri qui dentro, vero?» chiese Diana. «C'è stato un crollo che ha chiuso il passaggio. Non c'era bisogno di specificare le conseguenze della frana. La ragazza era intelligente». «Credo di essere in grado di rifarlo», disse lei pensierosa, dopo qualche istante di silenzio. «Rifare cosa?» Diana fece un movimento delicato con la mano, indicando la parete nella quale si era aperto il passaggio. «Potrebbe essere pericoloso, sei troppo debole». Tom scosse la testa, anche se sapeva che era irrazionale. «Forse che rimanendo lì dentro avrebbero avuto qualche speranza in più?» «Il potere oscuro, intendi?» troppo deboli per usarlo e non esserne uccisa? I suoi occhi neri erano lucidi per la febbre, ma l'espressione era determinata, come non l'aveva mai vista prima. Sì, a quanto pare il potere oscuro sta crescendo dentro di te come un cancro, divorandoti. Credo che usarlo senza saperlo fare possa velocizzare il processo. Tom, non abbiamo alternative. E io mi sento sempre più debole, gli rispose appoggiandogli la mano sul braccio. Presto non avrò la forza neppure di provare. Era ovvio che avesse ragione, e Tom non trovò argomenti da opporre. Ho trovato una mappa, le disse, come a rinforzare la fiammella che sentiva ardere debole dentro di lei. Sono sicuro che se riusciamo a uscire ci aiuterà a trovare la fortezza della solitudine dove è imprigionato Linerus. Fu gratificato da un pallido sorriso che apparve sul viso di Diana. Nulla garantiva che con la mappa avrebbero trovato alcunché, ma era sempre meglio che andare alla cieca. Era deciso ormai, avrebbero tentato, ed era meglio prima che poi. Tom raccolse l'otre piano per metà, diede a Diana una delle vesti che aveva trovato e si girò per permetterle di indossarla. Andò a sfilare la spada dalle mani scheletriche di Gaiman, che si spezzarono con un rumore di legna secca. Aveva fatto un po' di scherma da giovane e qualcosa doveva ancora ricordarsi. Sperava che non avrebbe mai avuto bisogno di usare l'arma, ma l'istinto gli diceva che non sarebbe andata così. Si inginocchiò accanto alla ragazza e si mise in attesa. Diana represse i brividi di freddo e di febbre che cercò di concentrare la sua mente su quello che voleva ottenere. Cosa aveva fatto quando erano entrati? Nulla che ricordasse, nulla che riuscisse a riprodurre. Si portò le mani alle tempie in un tentativo di aumentare la propria concentrazione. Niente, disse girandosi verso Tom. Non succede niente. Pensavo di esserne capace, ma non è così. Mi dispiace. Tom cercò di ricordare. Diana aveva usato il potere oscuro almeno due volte e all'epoca non sapeva neppure di possederlo. Cosa era stato in grado di scatenarlo? La paura. La prima volta la ragazza era terrorizzata dal demone che voleva uccidere nel palazzo abbandonato, la seconda dai due mastini degli abissi. Era stata la paura a richiamare il potere che stava nascendo. Ma com'era possibile evocarlo di nuovo? Lo sforzo sembrava aver spostato Diana e già le palpebre le calavano sugli occhi velati dalla stanchezza. Stavano per perdere la loro ultima possibilità. D'un tratto il terreno tremò con violenza, scagliandoli a terra. Continuò a sobbalzare a lungo, senza dare l'impressione di volersi fermare. Dal soffitto cominciarono a cadere grossi pezzi di roccia attorno a loro. Diana sgranò gli occhi e fu presa da una specie di convulsione. Un urlo disumano le sfuggì dalla bocca spalancata. La parete di roccia cominciò a svanire lentamente. Quando il Roth fece ingresso nella grande sala scavata nella roccia vulcanica, Shaltul gli dava le spalle. L'evocatore stava scrutando tra i vapori sulfurei che si alzavano pigri da un profondo crepaccio dal quale baluginavano bagliori rossastri. Non sembrava essersi accorto di lui, che si era messo in paziente attesa per non disturbare i pensieri del suo padrone. Inrot, mio consigliere, disse ad alta voce senza voltarsi e facendo trasalire l'ometto. Shaltul aveva occhio ovunque. Avvicinati. Inrot zoppicò fino ai margini del crepaccio. L'erede della linea di sangue ha attraversato il varco, disse Shaltul, senza distogliere lo sguardo dal vapore che si srotolava di fronte a loro come le spine di un gigantesco serpente. Mi domando come abbia potuto fare. Nessuno dovrebbe esserne in grado, non finché il sigillo sarà interpretato, ragionò ad alta voce il consigliere. Shaltul annuì, distratto. Non era quello che occupava i suoi pensieri. È all'interno della rocca di Gremion. Sto valutando l'ipotesi di inviare una legione e ucciderla prima che possa reclamare il trono delle tenebre. È una buona idea, mio signore, disse un tuo Senrot, ma forse le potenze delle tenebre ci stanno indicando una via migliore. L'evocatore lo scudò con attenzione, distogliendo lo sguardo dall'abisso che si apriva ai suoi piedi. Il cervello affilato del suo consigliere partoriva spesso buone idee. Vai avanti. In questo momento l'erede della linea di sangue non ha ancora sviluppato i poteri della nera. Non sa controllare il potere oscuro che cresce in lei e non ha nessuno che le insegni come usarlo. La sua famiglia si è estinta generazioni fa, il suo tutore non è qui. Shaltul annuì, interessato. Chissà dove vuole arrivare Inrot. D'altra parte, ormai è chiaro che nessuno vincerà la guerra del buio se qualche equilibrio non viene spostato in maniera brusca. Cosa suggerisci dunque? Se, per pura ipotesi, la nera riacquistasse i suoi poteri, avrebbe bisogno di alleati per combattere una guerra contro le tre confraternite. Shaltul annuì, di nuovo in silenzio. Cominciava a seguire il ragionamento del consigliere. Potremmo fare in modo che la nera si convinca che tu, mio onnipotente signore, sei l'alleato migliore. Che assieme potremo riconquistare il trono delle tenebre. E che una volta compiuta l'impresa, tu saresti il più fedele ai suoi vassalli. Inutile dire che è un patto che non avrò alcuna intenzione di rispettare, concluse Shaltul, portandosi sopra a pensare una mano sul cranio del labbro. Darò ordine alla Legione di prelevarla e portarla qui. Non sarà difficile ottenere la sua fiducia. Forse esiste un'alternativa migliore, rispose esitante in Roth, mentre si chinava di fronte allo sguardo incendiario del suo padrone. Anche se non ho alcun dubbio che il tuo fascino soggiogherebbe la giovane donna. Shaltul attese in silenzio le parole del consigliere. Quell'uomo valeva tanto oro quanto pesava, e gli poteva permettere anche qualche insolenza. Credo che sarebbe una buona idea lasciare che prima la ragazza impari a veicolare il potere oscuro. La tua onnipotenza, mio signore, non può insegnarle qualcosa che non conosci. Nessuno su Notturnia può aiutarla, riflette Shaltul ad alta voce. Quelle conoscenze sono perse nella notte dei tempi. In qualunque caso, Notturnia è un posto troppo pericoloso per una ragazza che non sa come usare i suoi poteri. Potrebbe cadere nelle mani dei negromanti o dei maghi neri. Non è escluso che anche le altre confraternite sappiano che ha oltrepassato il varco. Linerus, forse, può aiutarla, suggerì in Roth, già sapendo la reazione che avrebbe provocato. E non è detto che non abbia oltrepassato il varco proprio cercando lui. L'incatenato? Rispose Shaltul, sorpreso. Quel vecchio pazzo è prigioniero di Vama e di un negromante nella fortezza della solitudine. Non vedo di che utilità possa essere per la nera. È solo un vecchio pazzo, annuì servile il consigliere leccandosi le labbra, ma è l'unico che possa insegnarle come controllare il potere oscuro, mio signore. Forse ha perso i suoi poteri attraversando il varco, ma può darsi che non abbia smarrito la memoria, e in questo caso può tornarci utile anche se la nera dovesse morire. Ricordati che è stato lui a creare il sigillo. Lasciare addentrare la ragazza ancora senza potere nel territorio dei necromanti equivale a mandarla a morte certa. Oppure, ancora peggio, a consegnarla a Vama su un piatto d'argento. Concordo con te, ma rifletti, mio signore. Se riuscissimo ad affiancarla con un tuo servo degli abissi, lei sarebbe più sicura e tu sapresti sempre dov'è e cosa fa. Forse un piccolo gruppo può avere successo laddove un esercito fallirebbe. Un compagno di viaggio? L'idea sembrava interessante. Un demone però la spaventerebbe e lei potrebbe rifiutare il suo aiuto. Non tutti i tuoi servitori hanno un aspetto spaventoso e alcuni possono mutarlo a proprio piacimento. Il volto grifagno di Shaltul si contorse in un ghigno soddisfatto. Ma certo, il cangiante. Il mio signore ha perfettamente compreso il mio pensiero, disse Roth inchinandosi. Se mi permetti un ultimo suggerimento, mio signore, dimmi pure. Forse potremmo attirare l'attenzione di Vama in modo da distoglierlo da chi attraversa i confini del suo dominio. Pensi a un'offensiva militare? Credo che i nuovi demoni che hai evocato bramino la furia della battaglia, Shaltul annuì. Un'altra ottima idea del suo consigliere. Bene, Roth, sei stato prezioso come al solito. Puoi andare ora. Il consigliere si congedò con un ghigno soddisfatto e un inchino. Le cose stavano evolvendo in maniera interessante. Lui avrebbe continuato a giocare su due scacchiere diverse, ma legate da fili invisibili. Da una parte avrebbe colpito con forza e decisione sul campo di battaglia per tenere impegnati i suoi avversari. Dall'altra avrebbe controllato la nera, permettendole di acquisire e controllare i suoi poteri per poi usarla per dominare i notturni. Il suo nome sarebbe stato ricordato in eterno come quello di colui che aveva vinto la guerra del buio.